Letture di Radio 24. Registi megalomani, troppa fiction e troppi film che sfruttano le disgrazie altrui. In un articolo pubblicato sull'ultimo numero di Vanity Fair, Goffredo Fofi esprime le sue perplessità sul futuro del cinema italiano. Ma perché è così brutto il cinema italiano? Quel che si vede sugli schermi o negli onnivori festival in stile veneziano non è certamente granché, sia esso firmato da nomi illustri che da nomi incerti, da autori o da debuttanti. Resterà qualcosa di quel che è stato mostrato a Venezia? Non credo. E soprattutto è facile prevedere che non resteranno i film italiani, alcuni dei quali sono morti prima di nascere, delle rassegne maggiori, la cui nuova linea è da tempo quella stessa che riguarda una parte consistente dell'umanità, di profittare delle disgrazie degli altri, le astuzie dell'umanitario, trovando in letteratura e in cinema un'infinita schiera di piccoli e grandi parassiti. Se si salva qualcosa, è nel semidocumentario. E la ragione è molto semplice. Dopo 30 anni di regime berlusconiano e quasi un secolo di centralismo romano, gli italiani non conoscono più l'Italia, nonostante le frastornanti chiacchiere TV e denunce giornalistiche, che hanno avuto l'effetto di castrare ogni volontà di intervento e partecipazione. Il centralismo rimane e ha avuto il suo maggior puntello nella linea perseguita da una sinistra che, in questo campo, è stata perfettamente continuista. Vedi Veltroni. Si è così consolidata una corporazione ristretta di facitori di film che ha privilegiato una fiction di stampo televisivo, mentre lo spazio del cinema d'autore si dilatava grazie all'articolo 28, una commissione di cinematografari e parenti affidava somme ingenti ai progetti cartacei dei registi e lasciava da parte le figure dei produttori mediatori, mentre, grazie alle scienze della comunicazione e ad altri DAMS, ai giovani cui non si offrivano più posti di lavoro decenti, si dava l'illusione di poter essere tutti creativi e le lauree in cinema si moltiplicavano proprio mentre i giornali sostituivano ai critici i giornalisti, anche i più scarsi in questioni estetiche. Se dunque è dal semidocumentario d'autore che si può sperare qualcosa, da quello non retorico, non opportunista, non buonista, Rohrwacher, Framartino, Marcello e forse qualcun altro, dal cinema maggiore sono venute solo delusioni, grandi e piccole, e una quantità di piccoli e grandi megalomani convinti di avere chissà cosa da dire, che hanno sciupato per megalomania tante buone occasioni. Ultimo Sorrentino, e piccoli e grandi sfruttatori delle disgrazie altrui, come l'ultimo crialese candidato all'Oscar. C'è speranza nel cinema italiano? Cambierei la domanda. C'è speranza nella possibilità che la società italiana torni a esprimere qualcosa di buono e di radicato, un popolo in grado di capire e capirsi, di scegliere coscientemente il proprio avvenire? Francamente, sono molto pessimista. E lo sono anche perché mi pare che i cosiddetti intellettuali non sono oggi assolutamente all'altezza dei compiti che dovrebbero assumersi. Per non parlare dei politici. E dunque, in ogni campo, tocca più che mai a minoranze molto intelligenti ed eticamente molto motivate fare più di quel che in altre epoche gli è toccato fare per aiutarci a essere tutti meno stupidi, corrotti, ipocriti, nei cinema. E in ogni campo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Goffredo Fofi, Cinema italiano, che cosa c'è da salvare? Da Vanity Fair del 19 ottobre. È proprio vero che chi ha i denti non ha il pane. Questa sembra la condizione delle donne afroamericane che si trovano in grossa difficoltà quando si tratta di trovar marito. Ce lo dimostrano gli studi di Ralph Richard Banks, un noto professore afroamericano, alla scoperta delle cause di questo gap socioculturale. Perché le donne nere non trovano marito? Negli Stati Uniti sono la categoria con la più alta percentuale di single. Il 70% non sono sposate. Il problema affligge anche la fascia sociale superiore. Tra le nere laureate, una su tre arriva all'età di 40 anni senza essersi sposata. Tra le loro coetanee bianche, solo la metà delle laureate sono single a 40 anni. Questa anomalia ha attirato l'attenzione di un noto intellettuale afroamericano, Ralph Richard Banks, che insegna diritto alla Stanford Law School. Anche se non è un sociologo, Banks, per trovare una risposta, si è lanciato in un'inchiesta sul terreno. Ha girato l'America intervistando decine di donne nere. Ne è venuto fuori un libro illuminante dal titolo provocatorio «Il matrimonio è riservato ai bianchi?». La prima scoperta di Banks è che le nere hanno di fronte il peggior mercato possibile in termini di disponibilità di mariti, perché tendono a limitare la propria scelta agli uomini neri. Così facendo, il primo problema che incontrano è una penuria quantitativa. La scarsità di maschi neri ha una spiegazione ben nota e tragica: l'alto tasso di incarcerazione. Su 2 milioni di maschi americani che si trovano dietro le sbarre, il 40% sono afroamericani. Nella generazione tra i 20 anni e i 39 anni, cioè l'età più tipica per sposarsi, più del 10% dei maschi neri sono in prigione. Il secondo fattore è una penuria di tipo sociale. Le donne nere faticano a trovare dei potenziali mariti che abbiano il loro stesso livello di istruzione e di stipendio. Questo fenomeno esiste anche tra le bianche, ma è molto più accentuato tra le afroamericane. Studiano più dei maschi, hanno posti di lavoro più remunerati. Ci sono attualmente 1,4 milioni di ragazze nere che frequentano le università americane, contro solo 900.000 maschi. E al momento della laurea il rapporto numerico diventa 2 a 1 in favore delle ragazze. Questo scoraggia i matrimoni in due modi. Da un lato è più rara l'unione quando lo status della donna è nettamente superiore. D'altro lato, per quei maschi neri che hanno una laurea, un buon posto di lavoro e uno stipendio alto, il matrimonio diventa indesiderabile perché hanno troppa scelta. Proprio così, scrive Banks, essendo scarsi i maschi appetibili, quelli che lo sono hanno delle opzioni molto maggiori rispetto alle donne. Se troncano la relazione con una partner, ce ne sono tante altre che aspettano. Mentre le donne nere restano single perché non trovano l'uomo giusto, certi maschi neri restano single perché hanno fin troppa scelta. Questa situazione però potrebbe essere rovesciata. Basterebbe, osserva Banks, che le afroamericane andassero a cercarsi mariti in altri gruppi etnici, bianchi, ispanici, asiatici. Invece lo fanno poco. Sono il gruppo più segregato dal punto di vista matrimoniale tra tutte le minoranze etniche degli Stati Uniti. Solo una nera su 20 ha un marito che appartiene a un altro gruppo. Perché? Qui le interviste raccolte da Banks rivelano l'importanza di un atteggiamento culturale. È quasi una sorta di razzismo alla rovescia, anche se ha ampie giustificazioni e perfino una dimensione nobile e generosa. Le nere sentono un dovere di solidarietà verso i loro uomini. Chi conosce la storia confida una di loro. Non può non stare dalla loro parte. Vogliono aiutarli, non abbandonarli. Si aggiunge la convinzione che le barriere culturali e le incomprensioni renderebbero difficile la convivenza con un maschio di altri gruppi. Un uomo nero sa perché non mi lavo i capelli ogni giorno e non si stupisce se la sera devo avvolgerli in un foulard perché non si scompiglino di notte. La questione dei capelli è il simbolo di tante piccole abitudini che non vanno spiegate a un uomo nero. E poi c'è la verità più amara: la paura di avere con un marito bianco dei bambini dalla pelle troppo chiara e di essere scambiate per le colf. Avete ascoltato l'articolo di Federico Rampini, Nera? Single. Le afroamericane sono condannate a non sposarsi ed è tutta questione di mercato. Da Didi Repubblica dell'1 ottobre.